Santa, tena rica veste, ad offerir purgier, pure ancor essa, alla triforme dea. Vieni, vieni, bella Amaranta, e i voti tuoi unisci a volti miei. E pensa ancora che io è mio, tu sei.